con Luciano Melchionna. Intanto ben ritrovato dopo un po' di tempo, Luciano. Ciao, ciao, ciao Federico, ciao a tutti. Come va? Come stai? Bene, bene, sono molto bene, sono preparativi, non puoi immaginare, cioè verranno i miei artisti da tutta l'Italia, sarà una roba meravigliosa, sto anticipando qualcosina. Stai anticipando qualcosina perché è un'importante ricorrenza, allora ce ne parli un po'? Ma guarda, io credimi, sono veramente emozionato e incredulo, perché sono 10 anni di dignità autonoma e di prostituzione. Un bambino insomma che sta crescendo bello in forze e sempre più armonioso con dei clienti, perché tu sai che Dignità Autonoma e Prostituzione è il bordello dell'arte, quindi sì. Gli spettatori in realtà sono dei clienti, sì. Degli abitué ormai del bordello, e ci seguono da 10 anni migliaia, una roba meravigliosa, meravigliosa. Bene, bene. Senti, il 30 faremo un piccolo grande happening. Come ti dicevo, verranno tutti gli artisti che hanno ruotato in dignità, tutti quelli che potranno esserci, certo. E ci saranno moltissime sorprese e ospiti che omaggeranno il mio bambino. Allora, cominciamo dal luogo, dove succederà tutto questo? Allora, questo accadrà a Largo, che è adesso l'indirizzo non te lo so dire, mi pare che si chiami Largo Venue, perché è uno spazio abbastanza nuovo, okay. Aperto a settembre, uno spazio bellissimo secondo me, e che si presta perfettamente per questa ennesima follia di Papi Melchionna. Sarà il 30 novembre alle 20:30, sì. E non dirò più di tanto su come si svolgerà la serata, ma sarà una sorpresa continua, preparatevi. Senti, gli artisti coinvolti, questi, la quantità di artisti, questo ce lo puoi anticipare un po', quanti sarete? Ma, guarda, io credo in realtà che siamo arrivati intorno ai 50, ma continuano ad arrivare adesioni, per cui immaginati che meraviglioso delirio. Senti, durerà parecchie ore durante la notte, come succederà? Guarda, in realtà il vero e proprio happening verso le 23:30 mezzanotte, okay. Lascerà il passo a un DJ set, okay. Per cui si ballerà poi fino a notte tarda, okay. Però diciamo il cuore è tra le 20:30 e la mezzanotte al massimo, anche perché è un giovedì e io voglio che vengano tutti, anche quelli che lavorano poi il giorno dopo, perché sanno che poi possono andare via abbastanza presto, non come sempre dignità. Senti Luciano, per chi ci sta ascoltando raccontiamo anche un po' come venne l'idea di questo format con Betta Cianchini, come lo avete sviluppato? Mamma Cianchini, io sono Papi Melchionna e lei è Mamma Cianchini. E appunto 10 anni fa io facevo stanzette, lei faceva altre cose. Facevo stanzette significa che facevo già delle performance dentro delle stanze in luoghi inaspettati, come dire, okay. E ci è venuto in mente di raccogliere più artisti possibili dalla strada, perché era immediato e lo è ancora adesso che la condizione diciamo degli artisti in Italia è molto simile a quella delle prostitute e dei prostituti, perché non c'è grande tutela. Noi abbiamo pensato di dargli una casa chiusa e protetta con una matrice fortissima che è quella della meritocrazia. E infatti io sono molto molto fiero dei miei artisti, che sono dei talenti strepitosi che in Italia dovrebbero avere più spazi e più tutela, per sì, l'appunto, per sì. Cui è nata l'idea di creare questa casa chiusa dell'arte, dove ridare un valore all'arte, per cui si arriva, si acquistano il biglietto, ci sono i dollarini, i dollarini sono il denaro locale della casa chiusa, con quelli si assiste a una cerimonia di apertura e poi si comincia a comprare e dando un valore in qualche modo e assistendo alla trasformazione anche dell'artista, che fuori è una cosa, dentro la stanzetta, e per stanzetta intendiamo veramente di tutto, dai bagni, gli uffici, il sottoscala, chi più ne ha più ne metta, sì. Sono stato ovunque in questi anni, ormai lo sanno, cioè quando mi aprono le porte per trasformare il locale nel mio bordello, mi presentano prima i magazzini e sottoscala, poi tutto il resto, e mi temono anche per i loro uffici e i loro luoghi segreti, sì, come dire, sì. E poi si conclude con un'enorme festa della vita, perché una cosa meravigliosa a cui tengo tantissimo è che, oltre ad essere dei grandissimi artisti, sono grandissime persone, grandissimi esseri umani. Diciamo che questo è il criterio con cui scelgo i miei compagni di viaggio, e Betta Cianchini, diciamo che è in primis, no? Rende perfettamente l'idea di questo talento non solo artistico ma anche umano. Senti Luciano, ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più su questa serata? Non sono preparatissimo, Federico, mi devo preparare un po' meglio, però io vi dico intanto una cosa fondamentale, che per festeggiare questi 10 anni è uscito e verrà presentato per la prima volta il 30 novembre qui a Largo il libro dei monologhi di Pablo Melchionna, ecco. Si intitola Dignità, monologhi per attori, spettatori e lettori attivi. Ci tengo molto a dirlo, perché questa piccola casa editrice, ma piccola ma grande come l'Happening, che è la Chi più ne art, e a questo proposito ci tengo a dire che si possono acquistare anche sul loro sito chipiuneart.eu, se non erro. Vedi, sono abbastanza preparato tutto sommato. Alla fine sì. e ho deciso di pubblicarli perché la richiesta era infinita, cioè gli spettatori comunque ogni volta che escono da una stanzetta, perché non abbiamo detto che nelle stanzette ovviamente accadono delle performance, ci sono dei monologhi, e mi chiedono sempre di poterli poi leggere, conservare, custodire. Gli attori magari li vorrebbero usare come per fare provini, e insomma mi sembrava giusto e adeguato, e sono molto felice perché è un altro piccolo bimbo che nasce. Dopodiché appunto c'è il sito e la pagina ufficiale di Largo e di Ente Teatro Cronaca, che è la produzione che supporta ormai Dignità Autonome di Prostituzione. Sì, tra l'altro li ho conosciuti perché per l'Armata dei Sonnambuli che abbiamo proposto qui, sì, in radio, pensa. Quindi sì, ho avuto modo, sì, di essere a Napoli, di conoscerli proprio personalmente, è stata una bella esperienza. Devo dire, sì, mi trovo benissimo, e già che ci sono dico che per esempio qui a Roma saremo a marzo all'Eliseo anche con Parenti Serpenti, con Lello Arena, è sempre una mia regia. Te l'ho buttata lì, vedi, non sono preparato, però poi qualche cosa c'ha un mischio. Allora Luciano, un'altra cosa te la dico io, perché se tu sei più preparato tu, Federico, ma perché mi fai fare queste figure? Hai tutto scritto là davanti. Ma non è vero, io vado sempre a braccio. Io sono appena uscito dallo spazio dove sto provando, una confusione totale in testa. Senti, se hai un'agenda sotto mano, allora ti do anche io un appuntamento, perché sì, sabato 13 gennaio 2018 organizziamo una serata teatrale con una serata flusso, come si dice, sì, con tanti, sì, tanti, sì, corti tra tra monologhi teatrali e pezzi musicali al Nuovo Cinema Palazzo qui a San Lorenzo, sì, per i 40 anni di Radio Onda Rossa, una delle serate dei festeggiamenti che abbiamo fissato per quest'anno, che... e quindi sei invitato. Ma guarda, in realtà io, se vuoi, ti tengo il gioco e faccio finta di non sapere nulla, ma è da dire invece che ci sarà anche una performance dedicata e un omaggio a voi da parte di Melchionna, sicuro. Ah, che non bello. Potrei mancare. Sapevo già tutto e mi stavo già organizzando. Bello, bello. In scaletta Luciano Melchionna. Perfetto. T'abbraccio caro, ci vediamo lì da te e poi qui da, sì, noi. Quindi ci vediamo giovedì 30 a Largo alle ore 20:30. Perfetto, un abbraccio, grazie, ciao Luciano. Grazie di cuore. Ciao. Ciao.